Unità 2. Grammatica. Traccia 15. Buongiorno. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, vorrei fare un vaglia per la caparra di un hotel. Sì, ecco, questo è il modulo. Senta, scusi, mi può aiutare? Certo, mi dica. Il beneficiario chi è? Io ho l'albergo. Il beneficiario è l'albergo. Come si chiama? Hotel Miramare. Quindi nella casella ragione sociale scriva il nome dell'albergo e poi l'indirizzo. Va bene. Allora, Hotel Miramare, via Lungomare 13. Senta, scusi, cos'è il CAP? È il codice di avviamento postale. Ogni città ha un suo CAP. Per Napoli, un attimo che abbiamo l'elenco e controllo. Ecco, per Napoli è 37128. Allora, il mittente sono io, ma devo mettere il mio indirizzo qui in Italia o in Canada? Meglio il suo indirizzo qui a Verona. Dove alloggia? All'Hotel Giulietta, in via 25 aprile, 15. Metta quello, allora. Grazie. E quindi questa comunicazione del mittente è... devo mettere che è un vaglia per un caparra? Sì, deve mettere perché invia questi soldi. Va bene, allora, caparra per prenotazione. Benissimo, il resto lo compilo io, lei adesso deve solo fare una firma e mettere il suo numero di telefono. Ok, ecco qua. Grazie, allora sono 80 euro più le spese di commissione, in tutto 82 euro. Ecco i soldi. Grazie, ecco lei la ricevuta. Grazie. Arrivederci. Buongiorno.